per acquistare, dai, per i grandi, per quelli che hanno un, diciamo in gergo, un fondo, un borsellino bello grande, dai, e possono acquistare la casa che perde il povero operaio che sta cercando di pagarsi le due rate, non so se mi stai capendo, perché uno che ha un mutuo che paga a giorni d'oggi, un operaio che prende 1.600 euro al mese, tu paga 500-600 euro di mutuo, perché con i tassi che ci sono oggi in banca, che sono al 5-6%, al giorno d'oggi sono i tassi 5-6% per chi chiede un mutuo. Una casa da 120-130 euro ti viene a costare 180 alla fine, quando inizia a pagare 500-600 euro di mutuo per 30 anni e poi a questa cosa devi mettere questa aggiunta di soldi, cioè a questo mutuo devi mettere quest'altra aggiunta di soldi che saranno almeno di 40-50 mila euro per, almeno credo, per un'abitazione singola. Da dove li togli? Non puoi, la cosa è proprio impossibile, uno non si inguaia, quindi ma loro faranno le loro proposte e diranno che ti vanno da capo, tu gli puoi dire tutte le tue ragioni, perché ma qua c'è, noi siamo in Sardegna e abbiamo un clima abbastanza mite, loro ti parlano anche per l'estate, ma capotto ci vuole anche per l'estate per il risparmio energetico dei condizionatori. Quindi c'è sempre una, diciamo, troveranno sempre una via d'uscita a loro favore per fare quello che vogliono, per fare quello che vogliono. Ripeti, Fra. No, secondo me quello è tutto elaborato a tavolino. E con quella gente dei poveri non ne frega niente. E a fare soldi e basta. E a rovinare la gente, ma darci la gente tutto il fondo. Ma io spero che non succeda, ma è una cosa grave che sta succedendo in Italia, e solo l'Italia sta facendo tutto questo casino e aumentando tutte le tasse. Sì, solo il tasso, mi intendi, per carità, va a fare la spesa, non ti bastano 80-90 euro, ti metti, cioè non fai niente, non compri nulla, senza comprare stupidaggio, senza comprare, cioè comprando lo stretto necessario per sopravvivere a una famiglia, e vai a mettere gasolio ed è a 1,80 euro, e metti il coso ed è e vai a comprare, a fare un tagliando alla macchina e ci vogliono 140-150 euro se ti bastano. Perché gli oli meccanici vengono, ormai l'olio il più classico è a 18-20 euro il chilo, è tutto aumentato, e se voi guardate una volta che aumenta, prima la roba magari aumentava, poi la roba qui sempre, poi magari scendeva un pochino, una volta hanno trovato anche queste scamottaggi, cioè una volta che per esempio il chilo di pane lo portano a 4 euro, no? Lo portano a 4 euro, non è che dopo magari 3-4 mesi scende di nuovo a 2,50 euro, no, rimane sempre a 4 euro, cioè c'è l'aumento, la discesa mai. Riprendi Carlo, io mi devo assentare 2 minuti. Purtroppo, ma io credo che si ribellino anche le altre nazioni, io non credo che la Spagna, la Francia e tutte le altre nazioni d'Europa abbiano tutte le abitazioni così e con una fascia energetica così alta, giusto le abitazioni moderne adesso vengono già costruite così, chi fa palazzi nuovi li costruisce seguendo queste norme per il risparmio energetico e quindi non ci sono problemi, però il patrimonio di case che c'è in Italia è storico, quindi ci sono case private, palazzi, palazzine che sono datate anche di 80 anni, 100 anni, e come fai quelli a convertirli così? Dovresti radere al suolo tutto e ricostruire. Non credo che sia possibile, e questa situazione l'avranno anche le altre nazioni, quindi io non credo che l'Europa, capito, possa imporre così una legge che sì, oppure devi dare il tempo, devi dare 20 anni di tempo e dire alle nazioni in questo in 20 anni dovete mettere a posto almeno le nuove abitazioni, quelle che si possono convertire con una fascia energetica più alta, però purtroppo non tutte hanno quelle caratteristiche, capito? Quindi è tutto da vedere. A te, vai Franco. Sì, ma come farai a convertire un appartamento, tutto a prenderlo, a convertirlo, un appartamento che ha 60-70 anni? Quelli sono quelli che ci abitano dentro, i proprietari magari non hanno neanche soldi per mangiare, che hanno una misera pensione, oppure non riescono a tirare avanti per tutto il mese. Come fanno a farsi questi lavori qua, a fare tutti questi restauri? È tutta una questione di quattrini poi alla fine, però io non perderei le speranze, perché per adesso questa è, diciamo, è uscita la notizia sui telegiornali eccetera, ma ci vuole un po' di tempo perché venga, diciamo, assorbita da tutti e vedrai che secondo me già si ribelleranno in molti in Europa, perché non è possibile che dall'oggi al domani ti svegli e imponi una classificazione così delle abitazioni e le devi riammodernare, perché no, quello non è possibile. Speriamo che si ravvedano, insomma, e che trovino una soluzione, perché diversamente mandi le famiglie sul lastrico, se no. Infatti, siamo a posto di andare avanti, mi sembra andando indietro, che stiamo andando indietro. Ai tempi c'erano il re, che c'era il re, io non li ho conosciuti, però come si dice, come guardiamo qualche film, qualcosa, mi sembra che stiamo tornando indietro. Sì, esatto. Facciamo un passo avanti e due indietro, come il gambero, capito? Purtroppo è così. Bene, mera ragazzuoli, sto guardando l'orario e si è fatto tardi, anche io sono un po' stanco. Credo di esserci stato anche abbastanza stasera alla radio dopo cena. Colgo, diciamo, questo passaggio per salutarvi. Gavino, ti saluto, ci vediamo domani. Ciao Franco, grazie delle quattro chiacchiere a tutti. Un caro abbraccio anche a Giulio, se ancora in ascolto, e non so chi altro ci sia. Ritenetevi tutti salutati. Io chiudo perché è tardi e sono un pochettino stanco, dai. Me ne vado a riposarmi, se no domani mattina mi alzo tardi e invece ho un sacco di cosette che voglio fare, quindi penso di alzarmi intorno alle 7. Buona serata a tutti, buon proseguo per chi rimane e dai, ci sentiamo al più presto. Buonanotte a tutti. Sono entrato, eh? Ciao. Ciao Carlo, allora dai, buonanotte e buona giornata per domani, ce la ascoltiamo le prossimine. Avanti. Ciao Carlo. Ciao Carlo, ci vediamo domani. Buonanotte, buon tutto. Ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao. Un attimo per salutare a Carlo. Ciao Carlo, buonanotte, grazie per ecco, se io, anche se ero solo all'ascolto non ho parlato, comunque va bene così. Ciao, buonanotte Carlo. Riprendi pure del qua. Ora ci vuoi fare, così è, la vita, guardando come il gambero, avanti e dietro. No, se va nel disordine in Darido, Fra, se va nel disordine in Darido. Oioia, va bene. Lo sai, Fra, che ho messo il microfono dell'altra radio e mi ha fatto una comparazione, Tino, e non va bene. No, ma non è che tu non hai... Ma l'hai messo a casa? È positivo. Come mai? No, va bene. Io usavo quello politico, non usavo l'hai messo a casa. Guarda, aspetta un attimino, spengo questa e attacco l'altra. Ecco. Sì, viene avanti. Allora, questo è l'MC80. Questo è l'MC80. Sì, sì, guarda come la modulazione. Niente, sono la stessa, sono tutte e due alla stessa distanza, eh. Sono tutte e due alla stessa distanza. Questo è l'MC80. Ehi, capo. E l'MC60 com'è? Adesso te lo aggancio, aspetta. Questo è l'MC60, vedi un po'? No, non è un bianco. Vero? No. Ma i parametri del microfono sono lì? L'ho tolto dal chino, te l'ho messo. No, non hai capito. E forse anche del microfono, sono lì 50 in. Sì, sì, sì, adesso è a 50. Adesso è a 50, guarda se non c'è qualcosa. Sì, ha cambiato che si è abbassata la radio, mette la 50. Vedi che... cosa dici? No, come via? Come? Ma che culpa? Ma diciamo che... tu sono quello che piegavo mentre già volevo il carrario. È tutto... distorta la sento lì. Wow, ho abbassato il mic gain. Ho abbassato il mic gain della radio. Adesso è a 1,5. Mi dava troppo. No. Non te lo so neanche spiegare come cavolo è, però lo fea. E rimane fastosa, vero? Diciamo, è fine, molto fine lì. Questo è l'MC80, vedi un po' se va meglio, ma un pochino. Sì, questo è molto migliore. È positivo. E lui a volte non è detto perché sono vanno bene. Questo sicuramente è l'80, è più adatto alla radio così, mi segue. Sì, sì. Ma probabile perché io lo usavo per un VU quello là. Ah, ho capito. Quindi, diciamo che la modulazione è diversa. Avete provato su 60, alla radio è un po' duretto. E va bene così. E quindi niente, Siete buono per altre cose. Sì, no, vabbè, domani provo a farli le condizioni dell'MP4 qua, a vedere come fa. Perché? Domani gliele faccio e vediamo un pochino come esce. Va bene. Signori, anche io arrivato a una certa ora chiudo le trasmissioni e ce la risentiamo tutto alle prossime, perché è arrivata l'ora di fare la nanna. E saluto a Franco, saluto a Giulio, saluto chi ha l'ascolto e a tutti una buona notte e ce la risentiamo tutto alle prossime. Ascolto il finale e ce la risentiamo di nuovo. Ciao! Ciao, dai, buonanotte, buon tutto, ce ne ascoltiamo alle prossime. Ciao anche a Giulio, ce ne ascoltiamo alle prossime. Buona giornata per domani a tutti. Ciao. Ok, ciao Gravino, buonanotte, ciao Franco, buonanotte. Grazie per il consiglio, ciao, buonanotte a tutti.